Noi torniamo in piazza il 30 perché riteniamo che era ora di fare, di dare il permesso di soggiorno ai migranti, però il metodo in cui hanno usato questa volta sembra come lo stesso modo come hanno dato il permesso di soggiorno nel 2012 con il governo della destra, perché in questo modo mettono i migranti nelle mani dei padroni che decidono loro sulla loro vita, decidono come dare il permesso di soggiorno e danno anche la possibilità agli speculatori di poter chiedere dei soldi sempre ai migranti per potersi mettere in regola. E questa è una cosa inaccettabile. Da molti anni i migranti devono pagare dei soldi al posto del padrone per poter ottenere il permesso di soggiorno. Siamo sempre nella ricattabilità. E questa cosa qua noi come coordinamento migranti andremo poi con tanti altri motivi, come per esempio i migranti in questo momento sono tutti nei centri di accoglienza dove non c'è nessuna precauzione riguardante questa malattia, sono messi a vivere in modo dove non hanno la possibilità di poter distanziare, sono messi nei CAS, sono messi nei centri di accoglienza come se fossi in tempi normali, vivono nei castelli, sono messi intasati, non hanno la possibilità di fare niente, che se scoppia la malattia lì dentro sono dei problemi per tutti. Non andremo in piazza per tutti questi motivi qua. Soprattutto i migranti devono avere la possibilità di prendere un permesso di soggiorno europeo, un permesso di soggiorno che non è un permesso di soggiorno di 6 mesi come dicono loro, un permesso di soggiorno che possono avere regolarizzandosi su tutti i campi, non solo nell'agricoltura, il permesso di soggiorno che possono avere nel campo dell'edilizia, nel campo della logistica, in tutti i campi devono potersi regolarizzare senza dover stare lì a avere un permesso di soggiorno di 6 mesi solo perché stanno marcendo i frutti, le verdure nei campi. Questo è una cosa inaccettabile. Devono dare un permesso di soggiorno per dare la possibilità ai migranti di potersi iscrivere all'anagrafe, per poter avere il dottore, per poter accedere alle cure, per avere la possibilità almeno di potersi difendere da questa malattia. Non devono essere solo usati perché hanno bisogno di gente che vanno a raccogliere quello che c'è nei campi. Questo è una cosa inaccettabile. Andremo in piazza per quello. Lì. Come si svolgerà la manifestazione? Noi ci hanno già dato l'autorizzazione, però faremo un distanziamento non oltre una cinquantina di persone e cercheremo di fare come abbiamo sempre fatto, di prendere la parola e di dire quello che noi pensiamo in questo momento che si dovrebbe fare, non una regolarizzazione fatta in questo modo qua. In Piazza Maggiore, in Piazza Nottuno, alle 3 del pomeriggio abbiamo chiamato tutti, saremo lì fermi perché non ci sarà un corteo, però lì in piazza, in Piazza Nettuno, cercheremo di rispettare il distanziamento, avere le maschere e fare come di norma bisogna fare in questi tempi qua.